È stata veramente un'esperienza inaspettata, inimmaginabile. Non mai avrei pensato che a Doha, in Qatar, succedesse una simile, vedere il cielo pieno di missili e di contraerea. La situazione è molto tranquilla adesso, è tutto ripreso alla normalità. E comunque rimane ben chiara ieri sera quello che è successo e quello che abbiamo visto. Io stavo leggendo una storia alla mia figlia. A un certo momento abbiamo sentito delle esplosioni e dopo ho calmato mia figlia, mi sono affacciato al balcone che praticamente guardava proprio verso la direzione della base militare e niente, abbiamo visto i razzi della contraerea sparare e intercettare i 7 più, penso, altri 11 missili lanciati dall'Iran. È una sensazione veramente forte, ecco. E poi la gente naturalmente reagisce in maniera diversa, secondo come uno è, infatti il traffico è cominciato a impazzire. C'è gente che è cominciata ad andare giù negli scantinati per proteggersi, c'è invece addirittura che è andato a fare la spesa, addirittura perché ha paura che iniziasse la guerra. E no, fa effetto soprattutto quando vedi questi bagliori che pian piano si avvicinano sempre di più e tu inerme li vedi avvicinare e speri che questi si fermino. Poi fortunatamente sono stati intercettati, però la mente passa poi veloce a pensare quello che gli altri paesi come l'Ucraina, come la Palestina, come l'Iran stesso, o Israele vivono ogni giorno senza neanche aspettarsi o sapere che in maniera annunciata che magari qualche missile possa raggiungere il paese. E poi passa sempre per la testa che se magari quel missile sbaglia traiettoria, quindi vivi un po' con questa angoscia qui, però insomma adesso sembra tutto essere passato e tutto è tornato alla normalità come nulla fosse. Speriamo che continui così e che soprattutto trovino una pace, una fine a questa guerra.